dura 60. No, no, ci sta. No, ci sta. Secondo me ci sta. Ma per forza deve essere pieno, eh. Che si sa. Questa è vuota, però. Infatti è fuori legge. Ah, è fuori. Ah, qui è la legge. E noi cosa no? No. Chi? Il pollo del rosbif. Resta morto. Ah, boh, come vuoi. Ma sei quello l'albero. Yeah, no, quello di prima è meglio. Ma è tuo. Tuo? Chi è tuo? No, è il suo. È tuo, il bugie è mio. Vabbù. Lasciamo quello di prima. Ma che cosa? Ma quel testo che ce l'ha di tua madre. Fighissimo. Vero, pausa.